Cari cristiani, vi siete accorti anche dalla solennità del rito, dei canti, che stiamo celebrando una festa particolarmente solenne, la festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale, cioè del Duomo, il nostro Duomo di Milano, chiamata Chiesa Cattedrale perché lì ha la sede la cattedra, l'insegnamento della nostra fede attraverso il Vescovo che è successore degli Apostoli. Ogni diocesi, ogni parrocchia ha la sua chiesa cattedrale e in alcuni paesi del meridione d'Italia viene chiamata con un nome molto bello e significativo. Qui da noi al nord non si usa, ma è bello. La chiesa madre. La chiesa madre perché ogni cosa viva viene generata. Sono solo le montagne, i sassi che non sono generati se non da sconvolgimenti tellurici, dal magma, dai vulcani. Tutto il resto dalle piante, a qualsiasi organismo, anche monocellulare, agli animali, all'uomo. Tutto è generato da una madre. Anche il cristiano, anche la fede cristiana è generata da una madre, la Chiesa. È vera, è bella quella frase di un padre della Chiesa, San Cipriano, che diceva 1600 anni fa: non può avere Dio come padre chi non ha la Chiesa come madre. E la maternità della Chiesa avviene attraverso i sacramenti, attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce, ma poi si concretizza anche nella Chiesa Madre, nella Chiesa Cattedrale. Cari cristiani, dovremmo forse fissarci un po' di più su questo tema. Non so se e quanto ci sentiamo figli di una Chiesa Madre. Io ho provato in una parrocchia precedente ad accompagnare un pullman della terza età a visitare il Duomo e mentre scendiamo nella piazzetta dei mercanti lì davanti al Duomo ho ancora in mente il nome di quella donna, lo dico tanto non sapete chi è, Carolina, che aveva più di 80 anni, come scende dal pullman e vede il Duomo e dice: come le belle, in dialetto, come bello. Dico: Carolina, non l'hai mai visto? Mai. In 80 anni e più non aveva, e abitava a 50 chilometri dal Duomo di Milano, non aveva mai visitato il Duomo. Amici, e voi dentro l'avete visitato bene? Vi invito a visitarlo bene, servendovi anche delle guide, delle audioguide. Pensate che sotto il Duomo di Milano, ed è stato scoperto solo 50 anni fa, quando scavavano per la metropolitana, hanno trovato il battistero in cui Sant'Ambrogio, 1600 anni fa, ha battezzato Sant'Agostino. La storia, amici, è qualcosa di così importante perché sono le nostre radici. Io vi auguro di visitare il Duomo, vi auguro di... Potete anche visitarlo da casa vostra, ormai ci sono tanti sussidi audio, video, in internet, ci sono dei CD. Amate la Chiesa Madre, perché se in una parrocchia c'è un prete, non è che ha scelto lui di andare in quella parrocchia, è stato mandato dal Vescovo che presiede la cattedrale. Io devo correre via perché vorrei fare altri due passetti e non essere eccessivamente lungo, ma impariamo ad amare la Chiesa nostra madre. Anche il Duomo è un capolavoro che non si finirebbe mai di gustare. Ma perché? Ma perché la Chiesa è amata, tutto sommato, dai suoi figli. E i nostri antenati hanno voluto costruire, sono stati i potenti, i signorotti, ma c'è stato anche, studiando la storia del Duomo, c'è stato anche un concorso della povera gente, da chi ha offerto giornate di lavoro. Questo avviene ancora oggi in tante chiese, a chi ha dato la sua piccola moneta per costruire questa chiesa madre. Vorrei fare un secondo passo. Abbiamo sentito nella prima orazione: con pietre vive e scelte, tu edifichi, o Dio, alla tua chiesa un tempio eterno. E siamo noi. La chiesa madre, la nostra cattedrale, il Duomo di Milano, c'è perché è la sede, è il luogo della chiesa che siamo noi. La vera chiesa non sono gli edifici, come la vera biblioteca non è un apparato architettonico, ma sono i libri che per essere raccolti hanno bisogno di una struttura. Come a scuola, la terza D non è il locale al secondo piano a destra, sono i ragazzi della terza D che, vivendo dentro in una classe, danno il nome alla terza D. Tant'è vero che quando io insegnavo a scuola dovevo andare in un'aula, andavo dalla bidella e dico: dov'è la terza D? Non mi diceva: don, è lì a destra. Mi diceva: è giù in palestra a far ginnastica. La terza D, la chiesa, siamo noi, amici. E allora, se la chiesa edificio deve essere bella, deve essere, e noi ci teniamo, il popolo ci tiene, anche la nostra chiesa la mantiene in ordine, tira fuori anche dei soldini per mantenerla efficiente. Però, ed è il terzo passo, dobbiamo non dimenticare che la vera chiesa siamo noi come insieme, e ciascuno di noi battezzato. E allora, se dobbiamo mantenere bene il Duomo, la nostra chiesa parrocchiale, se dobbiamo onorare e mantenere bene la chiesa fatta di pietre vive che siamo noi, dobbiamo anche mantenere onorevolmente noi stessi. E qui c'è una bellissima lettura che abbiamo sentito di Paolo, Prima Corinti capitolo 3 versetto 9 e seguente, e dice: io Paolo ho fatto l'architetto, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sotto. Ma dovete stare attenti, perché come io non ho messo un fondamento diverso da quello di Gesù Cristo, così sopra questo fondamento dovete costruire con materiale pregiato: oro, argento, pietre preziose, non con fieno, paglia, legno, perché alla fine ci sarà il giorno del giudizio. Il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno, e se l'opera di qualcuno finirà bruciata, il Duomo, la chiesa edificio, la chiesa fatta di pietre vive, ognuno di noi che è un'abitazione di Dio, e dobbiamo trattare bene la nostra persona, corpo e anima, perché alla fine ci sarà il giudizio, amici. E Paolo conclude questa sua bella lettura dicendo: ma non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Allora, se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Guardate quale onore il cristiano dovrebbe dare anche al suo corpo. La Chiesa non è spiritualista. La Chiesa è spirituale, ma sottolinea tanto anche la materialità, il corpo. Per esempio, la Chiesa ha sempre proibito l'automutilazione del tuo corpo. E se la Chiesa in tanti suoi pensatori è contraria, per esempio, a quell'invadenza dei tatuaggi, è perché dici: ma cosa manca al capolavoro del tuo corpo che Dio ha creato, che tu lo vuoi correggere o sciupare? Allora, cari amici, trattiamo bene. Sembra impossibile che si dica dall'altare queste cose, ma in realtà trattiamo bene anche il nostro corpo. Tant'è vero che il quinto comandamento, che dice non uccidere, proibisce anche il danneggiamento del tuo corpo. Proibisce il suicidio, proibisce l'omicidio, un altro corpo, proibisce la mutilazione. Concludo. Spero di non essere stato troppo complicato. Amiamo il Duomo di Milano, è la nostra Chiesa Madre. Amiamo le nostre chiese parrocchiali, che sono figlie di questa Chiesa Madre. Amiamo la comunità, la Chiesa viva, fatta di pietre vive, che si ritrova nelle nostre chiese. Amiamo noi stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso.